Buonasera cari radioascoltatori e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto da Annalisa qui in studio a Bruxelles e buonasera a Michele questa sera in regia con noi. Buonasera Michele, grazie per il supporto tecnico. Buonasera Annalisa. In collegamento dovrebbe esserci in co-conduzione Alessandra. Buonasera Alessandra. Buonasera Annalisa e buonasera amici radioascoltatori. E questa sera, cari radioascoltatori, un giro di boa come sempre al passo con l'attualità. Faremo un approfondimento e commenteremo l'intervento francese in Mali. Le forze armate francesi hanno avviato l'11 gennaio scorso un intervento a supporto delle forze governative del Mali contro i ribelli islamisti legati ad Al-Qaeda. Le truppe francesi combattono insieme alle nigeriane e senegalesi per contrastare gli islamisti che dal nord cercano di conquistare alcune città del centro. Un intervento quello francese che è strettamente nel quadro delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, risoluzioni sul Mali, come ha sottolineato il presidente francese Hollande. Le forze francesi e africane sono entrate a Timbuktu, hanno ripreso Gao e ora stanno riprendendo la città di Kidal. Il Regno Unito ha annunciato l'invio di 330 militari a supporto dell'intervento francese, mentre l'Unione Europea si appresta a lanciare una missione di addestramento per le forze maliane. Con il nostro ospite di questa sera cercheremo di fare il punto della situazione e soprattutto di capire meglio le dinamiche di questi avvenimenti. Il nostro ospite, che dovrebbe essere in collegamento, è Massimo Alberizzi. Buonasera Massimo, ci senti? Buonasera a voi tutti e a tutti gli ascoltatori naturalmente. Massimo Alberizzi è corrispondente del Corriere della Sera dall'Africa con sede a Nairobi ed è appena rientrato dal Mali. Quindi Massimo è appunto a Nairobi, speriamo che vada tutto bene da un punto di vista tecnico. Grazie quindi per essere con noi questa sera. Alessandra. Grazie a voi. Sì, decisamente Massimo, grazie mille per il tuo tempo, perché sappiamo che insomma probabilmente sei molto molto impegnato, poi soprattutto ricordiamo che a Nairobi sono 2 ore in più rispetto a noi. Ma allora io partirei subito con la prima domanda. Potresti spiegare brevemente ai nostri ascoltatori le origini di questo conflitto? Oserei dire un conflitto che ha colto un po' di sorpresa l'opinione pubblica, in quanto prima del conflitto si è parlato poco di questo intervento, e dunque illustrare anche brevemente la situazione politica in Mali. Sì, è un conflitto che però viene da lontano, da molto lontano, cioè i Tuareg sono in lotta con il governo centrale dall'inizio del Novecento, poi con i francesi, quando il Mali è stato colonizzato dai francesi e faceva parte dell'Africa occidentale francese. Quindi i Tuareg hanno sempre avuto, sono dei gruppi nomadi, ma sono andati sempre in conflitto appunto col governo centrale. Quello, la novità diciamo di questi anni, che non è recentissima, perché parliamo di 10 anni fa, è l'inserimento dei gruppi islamisti fondamentalisti, allora Al-Qaeda nel Maghreb islamico, per esempio, il quale appunto ha rapito parecchi occidentali in quella zona dal 2003, sono diciamo frange che tra altre cose arrivano dall'Algeria, quindi non sono autoctone né maliane né di quell'area, arrivano da nord. E arrivano da nord e si sono installati nel nord del Mali. All'inizio dell'anno scorso i Tuareg hanno incrementato le loro azioni contro il governo centrale, i Tuareg che sono Tuareg non certamente fondamentalisti, non certamente islamici puri, tant'è vero che hanno anche degli usi e costumi che non sono assolutamente di tipo islamico, di tipo proprio islamico, diciamo, quello tradizionale, e hanno aumentato, diciamo, incrementato la loro battaglia. Si sono inseriti dei gruppi appunto fondamentalisti nel nord del Mali che hanno quasi utilizzato, perché utilizzato la lotta islam e la lotta Tuareg per invece inserire l'islamismo. L'anno scorso i Tuareg, approfittando anche della vacanza di potere perché c'è stato un colpo di Stato nel Mali, si sono impadroniti di tutto il nord, che è chiamato Azawad, la terra loro, la patria loro Tuareg, Azawad. E, hanno preso per primi le città del nord e poi sono inseriti invece gli islamici, che hanno cacciato, li hanno cacciati, e loro hanno instaurato una stretta legge coranica su usanze che non sono assolutamente appunto fondamentaliste, perché anche l'islam maliano non Tuareg era un islam sufi, dove le donne non si coprono per nulla la testa, sono vestite con vestiti che sarebbero appunto assolutamente contro le usanze islamiche fondamentali. Perché attenzione, non bisogna corrispondere l'Islam con tutto ciò che l'Islam, come il cristianesimo, e ha diverse sfaccettature, come noi sappiamo benissimo, e quindi non bisogna fare di tutta erba un fascio. Questo è un grave errore che fanno, che facciamo noi occidentali molto spesso, quindi identifichiamo l'Islam col terrore e col terrorismo. Ecco, non è assolutamente vero, non è così. Le frange terroriste islamiche sono poche, sono sicuramente non sono accettate dalle popolazioni quasi ovunque nel mondo islamico. Ecco, allora, per tornare ai Tuareg, a un certo punto sono stati buttati via. Adesso i francesi sono arrivati l'11 gennaio proprio perché gli islamisti cercavano di conquistare il sud del Mali, che appunto invece era ancora sotto controllo governativo. Le loro azioni, con l'esercito maliano e l'esercito di Burro, le loro azioni stavano avendo ragione dell'esercito maliano, sono intervenuti urgentemente i francesi con dei corpi speciali, con la guerra all'arco, si sono conquistati praticamente Timbuktu e Gao, che sono le due città importanti che, attenzione, non sono Tuareg, comunque non sono a maggioranza Tuareg, e quindi hanno fatto entrare lì l'esercito maliano, tipo il maliano. Diverso il caso di Kidal, perché Kidal è al 100% Tuareg, è una città Tuareg, dove sì, ci sono, ovviamente ci sono anche altri gruppi etnici, ma sono altri gruppi etnici, direi, di importazione, di immigrazione. E i Tuareg, che detestano il sud del Mali e quindi l'esercito maliano, hanno avvisato la Francia: noi siamo laici, combatteremo con voi il terrorismo e i terroristi islamici, ma attenzione, non vogliamo i maliani, perché in 100 anni a questa parte ci hanno martellato, ci hanno violentato, ci hanno emarginato, e quindi infatti a Kidal sono arrivati, secondo me con un accordo segreto tra francesi e Tuareg, sono arrivati i francesi all'aeroporto, hanno sicurizzato l'aeroporto, ma truppe maliane a Kidal non sono arrivate. Quindi è tutto un calderone di una confusione enorme, abbastanza anche difficile da spiegare. Spero che voi e gli ascoltatori abbiano un po' capito quello che ho cercato, con parole un po' povere e magari non correttissime, ho cercato appunto di spiegare. Massimo, il presidente francese Hollande ha dichiarato che l'obiettivo dell'operazione è ripristinare l'integrità territoriale del Mali, quindi respingere le forze islamiste dalla parte nord del paese, e ha detto che le forze francesi, al momento sono circa 2.400 militari, resteranno il tempo necessario. Non lo so, probabilmente è difficile fare previsioni, ma secondo te quanto può durare questo tipo di intervento, e quali sono le possibilità che si possa concludere con un successo definitivo? Guarda, ci sono due scenari. Il primo appunto è che i francesi convincono, infatti c'è stato anche un appello di Hollande, appello al governo maliano perché collabori con i Tuareg, apra un dialogo, apra delle trattative di pace, e se il Mali accettasse una cosa del genere, i Tuareg sono pronti a combattere il terrorismo assieme ai francesi. E allora in questo scenario devo dire che i Tuareg sono molto più abili e sono uomini proprio del deserto, più di quanto siano gli arabi che vengono dal nord, che sono poi quelli di Al-Qaeda, e quindi conoscono tutte le piste, tutti i santuari, tutti i posti dove si possono nascondere cisterne per l'acqua o cisterne per il carburante o dove hanno nascosto le armi. Quindi i Tuareg, se prendono possesso del territorio, gli islamisti li cacciano completamente. E quindi questo è uno scenario che andrebbe avanti per un po', sicuramente, perché va avanti per un po', non è una guerra lampo che è finita, perché appunto gli islamici hanno dei santuari dove rifugiarsi in mezzo al deserto, e allora potrebbero attuare una guerra di mordi e fuggi, cioè attacchi il pozzo petrolifero, come è accaduto in Algeria qualche giorno fa, e poi ti tiri, poi prendi un altro paio di ostaggi, chiedi dei soldi, perché attenzione, qui parliamo di politica e religione, ma questi di Al-Qaeda sono anche dei criminali comuni, perché prendono ostaggi, gente innocente, non solo, fanno traffico di droga, traffico di cocaina. Tu voi pensate che ci sono degli aerei che arrivano dal Sud America, sono arrivati degli aerei dal Sud America, sono atterrati nel deserto, sono stati bruciati perché si sapeva in anticipo che non sarebbero potuti ripartire. Quelle sono delle vecchie carcasse che hanno fatto l'ultimo volo l'hanno fatto nel deserto, carico di cocaina, tirato giù il carico di cocaina, bruciato tutto, e appunto è scompare l'aereo, c'è il carico che vale ovviamente molto di più della vecchia carretta. Ecco, questo fanno anche questo gli islamisti, quindi siamo proprio ai confini da appunto criminalità, politica, religione, non è ben chiaro il confine. Ecco, se i Tuareg riescono a distruggere questo tipo di criminalità, la chiamo, ecco, allora la guerra si conclude in poco tempo, relativamente poco tempo, attenzione, relativamente. Se invece non ci riescono, allora continuerà una guerriglia appunto di tipo terroristico, come quella in Somalia, in Afghanistan, in Iraq, e lì allora ci vorranno veramente anni per distruggerla. Massimo, quali sono le ragioni che hanno spinto la Francia, ex potenza coloniale nel paese, come si ricordava prima, ad intervenire? Olanda si è dimostrato, lo dobbiamo riconoscere, capace di una scelta coraggiosa. Quali però sono i rischi di questa decisione? Tu hai appena menzionato altri scenari che ben conosciamo, e forse un rischio è di essersi inseriti in un nuovo ginepraio, visto che comunque tu l'hai descritta, la situazione iniziale è molto molto molto complessa. Certo, c'è questo rischio Afghanistan, anche se le condizioni sono molto diverse ovviamente, attenzione, l'Afghanistan è già un paese abbastanza fondamentalista prima ancora dell'arrivo dei talebani, attenzione, io sono stato in Afghanistan parecchi anni fa, c'era ancora il re e le donne erano già col burka in testa, quindi c'era la sharia, anche se poi fumavi hashish, perché hashish e marijuana erano liberi ai tempi, parliamo del 68, 72, 73, quindi ormai sono tanti anni fa, ecco, però a quel tempo era tutto molto diverso, sì, era un paese islamico che comunque era duro nelle regole interne ma non pensava al terrorismo, ecco. Invece qui ecco, c'è il rischio della guerra terrorista globale, dove si inseriscono questi elementi che sono i qaedisti e che sono molto molto pericolosi. E quindi Olanda ha fatto una scelta coraggiosissima, però attenzione, appunto è coraggiosa proprio perché c'è il rischio che si finisca in un altro Afghanistan. Lui dice che si ritira, ma io voglio vedere se si ritira e i qaedisti prendono veramente di nuovo possesso del nord, perché quello che Olanda ha evitato, e qui devo dire che c'è stato un cattivo riconoscimento dalla comunità internazionale, tu all'inizio hai detto che gli inglesi partecipano aiutando la logistica, alcuni altri aiutando la logistica, la Spagna faccio sapere, giustamente, se vuoi non c'ho soldi, quindi non posso rischiare di imbarcarmi in un'impresa militare. L'Italia ha fatto una pessima figura, perché prima ha promesso un aiuto logistico che poi non gli darà, perché probabilmente non ci sono soldi, la situazione politica italiana non lo permette, però abbiamo fatto come al solito, secondo me, un gioco con una figura veramente bambina, proprio perché non puoi promettere una cosa e poi tre giorni dopo dici no, scusa, mi sono sbagliato. Altri paesi intervengono con aiuti di soldi, per esempio, anche il Giappone, però questa è una guerra europea, bisogna rendersi conto che, ammesso e non concesso che vogliamo fare questa guerra, quindi c'è anche delle posizioni che dicono no, non si doveva fare, è tutto legittimo, però se la fai devi partecipare in qualche modo, devi partecipare almeno con delle azioni appunto di tipo logistico, che non voglio dire con i combattimenti, mandare delle truppe da combattimento, però infatti Hollande ha più volte, perché poi la crisi non è solo italiana e spagnola, perché i francesi magari non sono in crisi come noi e i tedeschi tantomeno, però i soldi non è che parlano nelle tasche allegramente e regolarmente di tutti. E quindi, sai, è uno sforzo molto grosso, però questa decisione coraggiosa ha fatto in modo che un paese come Mali non diventasse islamico, poi con loro stesso auspicio di esportare la guerra, sarebbe stato una guerra e un paese islamico a 2 ore o 3 ore di volo alla Sicilia, ecco, voglio dire, e 5 ore di volo a Berlino da Parigi, quindi proprio alle porte di casa nostra, con il pericolo che tutti possiamo immaginare. Resta lanciare una missione di addestramento per le forze governative del Mali di circa 500 persone. Quale contributo tu pensi possa portare? Scusa, non ho capito l'inizio della domanda, perché è andata via la voce. Stavo dicendo, no, l'Unione Europea si appresta a lanciare prossimamente una missione di addestramento, circa 500 persone per le forze maliane. Ti volevo chiedere quale contributo pensi che questa missione possa portare. Guarda, questo non porterà nessun contributo alla missione attuale, perché se tu fai il training deve durare un certo tempo. Diciamo che come un atto di cooperazione di sviluppo, cioè tu dici voglio sviluppare un campo di grano, ti insegno a seminare il grano e poi tra 6 mesi prendiamo il raccolto, ecco, una cosa del genere, non è sicuramente una questione di emergenza, però è importante, ovviamente, è importante anche dal punto di vista solidale, perché appunto, ripeto, questa è una guerra europea, doveva intervenire in qualche modo l'Europa. Potremmo parlare ore sul perché, sul per come, se era il caso di intervenire militarmente o no, perché ci pare se interveniamo militarmente oggi paghiamo dei grossi errori che sono stati fatti da anni, perché io sono convinto che ai Tuareg erano state promesse delle cose, me l'hanno anche detto loro e sono convinto che hanno ragione, che poi non sono state mantenute, e allora da questo la nuova ondata di ribellione che è cominciata all'inizio dell'anno scorso, proprio perché i Tuareg hanno firmato diversi accordi di pace spessissimo, per esempio che sarebbero stati integrati nell'esercito, cosa che non è stata assolutamente fatta, sono state integrate 10 persone, 4 generali senza nessun potere tra l'altro, e quindi poi alla fine si sono ribellati di nuovo, e credo che la Francia su questo abbia delle colpe particolari, perché sono stati loro a promettere e a negare, quando durante la decolonizzazione hanno negato uno Stato Tuareg, hanno annesso al Tuareg al Mali, si pagano le stesse colpe che si pagano in altri paesi dell'Africa, come il Sudan, no? che era una nazione unita da nord a sud, dove ci sono gli islamici e cristiani, ci sono i neri e i bianchi, ci sono gli ex schiavisti e gli ex schiavi. E quindi è saltato tutto l'equilibrio, e lì è saltato anche per grazie a questa storia. Oggi intervento militare sì, intervento militare no, secondo me hanno fatto bene a intervenire, però è legittimo anche la posizione di chi dice si doveva risolvere in un modo pacifico. Io non credo che a questo punto ci fosse spazio per risolvere in un modo pacifico gli contro gli islamisti, però appunto bisogna riconoscere che siamo a questo punto proprio grazie alle colpe anche nelle potenze coloniali e dei leader che hanno guidato in questi anni i paesi musulmani di quell'area. Massimo, siamo arrivati in conclusione al tempo che ti potevamo dedicare, non ci resta che di salutarti, ma volevo chiederti un'ultima domanda. Adesso, come abbiamo detto in apertura, sei a Nairobi, quando è che riparti in Mali o rientri in Italia ora? Dunque, io sono a Nairobi perché ci abito a Nairobi, quindi diciamo è la mia sede, quindi rientrerò I mali, quando appunto mi dicono io sto per partire, anche i miei amici, quando ritorni, dico ragazzi è meglio che io non torno, perché quando io torno vuol dire c'è una crisi, quando se non torno invece siamo in una condizione di pace. E quindi se ovviamente pacifichiamo, veramente la guerra riesce in qualche modo a pacificare questo paese, che è un paese meraviglioso, tra l'altro ci sono di una cultura dove non la conosciamo poco, io stesso sono stato al museo e sono stato impressionato, ieri mattina ero al museo di Bamako e devo dire che sono stato impressionato dalla cultura di questa gente, che avevo solo letto, non avevo visto. Anche sono stato in Mali 5-6 volte, purtroppo, ma quando andiamo per lavoro non andiamo a fare turismo, quindi sono impressionato, ecco, per il bene del Mali è meglio che io non ci torni, ecco, diciamo. Perfetto, credo che sei stato molto, molto chiaro, allora non ci resta che ringraziarti ancora una volta, augurarti buona fortuna. Annalisa, vuoi aggiungere qualcosa dallo studio? Massimo, ti vorrei ringraziare anch'io per il tuo interessante contributo alla trasmissione di questa sera, noi speriamo di riaverti nuovamente in futuro ai nostri microfoni, grazie e buon lavoro. Quando volete, vi ringrazio io, ringrazio tutto lo staff della radio e tutti gli ascoltatori che ci hanno sentito. Buona serata. Facciamo ora una pausa musicale. Dunque, cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, questo programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Continuiamo questa trasmissione di questa sera. Commentiamo ora con il nostro ospite le elezioni anticipate che si sono tenute in Israele lo scorso 22 gennaio. Vorrei prima di tutto introdurre il nostro ospite di questa sera, è Antonio Ferrari. Ciao Antonio, ci senti? Ciao, buonasera a tutti, sì. Dunque Antonio Ferrari è stato benvenuto, bentornato a Giro di Boa, è stato per oltre 30 anni inviato speciale del Corriere della Sera, recentemente anche editorialista, grande conoscitore del Medio Oriente, noto per le sue interviste ai principali esponenti della scena medio orientale e cura la videorubrica Voci dal Vicino Oriente su Corriere.it. Dunque, come stavo dicendo, lo scorso 22 gennaio si sono tenute in Israele le elezioni anticipate, fortemente volute dal premier uscente Benjamin Netanyahu, elezioni che però non hanno portato il risultato sperato dal premier, in quanto l'attuale alleanza di destra ha ottenuto giusto il 50% dei seggi disponibili, 60 seggi, e per il nuovo governo si preannuncia una coalizione forse più ampia e forse un nuovo primo ministro. Quali sono i quesiti sollevati durante la campagna elettorale? Quali sono gli argomenti che sono stati evitati? Quali sono i volti nuovi che sono comparsi sulla scena politica israeliana e le sfide che ora attendono il nuovo esecutivo? Ne parliamo appunto questa sera con Antonio. Antonio, sicuramente la novità uscita dalle urne è il partito Yesh Atid di Yair Lapid, ex giornalista e conduttore televisivo, lo si definisce il George Clooney e Antonio Banderas della politica israeliana. Ecco, vorrei chiedere se puoi spiegare ai nostri radioascoltatori chi è Yair Lapid, il suo background, come è entrato in politica e le ragioni diciamo del suo successo. Il suo partito, appunto, che si è presentato per la prima volta, ha ottenuto 19 seggi. Cioè, tutto è sorprendente, Israele veramente ci ha sorpreso non soltanto per l'errore madornale commesso dal primo ministro Netanyahu di chiedere elezioni anticipate nella convinzione che, avendo unito le forze con il partito di estrema destra di Avigdor Lieberman, avrebbe potuto prendere molto più dei 42 deputati su 120 della Knesset, che rappresentavano il blocco più importante della sua coalizione di governo, gli altri erano religiosi. Allora, unendo i due partiti che si sono presentati accoppiati, un abbraccio, questo abbraccio è parso quasi funereo, perché da 42 seggi invece di aumentare sono diminuiti di 10, di 11, sono diventati 31. È chiaro che questa è una batosta, è una vittoria che è una sconfitta di fatto, è che è una sconfitta perché la credibilità di Netanyahu è veramente molto, ma molto discesa, ammesso che mai sia stata altissima, un personaggio troppo arrogante e troppo ambizioso, e forse non aveva saputo cogliere quel nuovo che stava emergendo all'interno della società israeliana. Ecco, mi chiedevi se Yair Lapid qual è il suo background. Sicuramente non è un background politico, anche perché, come hai detto, è la prima volta, il suo partito è il nuovo di Zecca. Lui sta seguendo le orme del padre, esattamente quelle del padre, che aveva fondato questo partito laico, il padre di Yair, Tommy, anche lui era un giornalista molto molto noto, molto affermato in Israele, molto laico, esattamente come il figlio, e anche quello era partito da zero, ma aveva creato un movimento forte, ma meno forte forse, almeno all'inizio, di quello del figlio Yair. È chiaro che l'affermazione di Yair è stata un'affermazione secca: diventare il terzo partito di Israele subito sotto l'accoppiata perdente, non tanto l'accoppiata vincente, insomma è un voto importante, è un segnale importante, tanto più che nella città più laica del paese il partito C'è Futuro, quello di Yair Lapid, è stato il primo partito, quindi vuol dire che si è creata anche una certa spaccatura. Lo zoccolo duro che sostiene Netanyahu sono i coloni, mentre i laici, quelli che credono in Israele, che vuol tornare ad essere un paese normale, hanno guardato più ad altri come Yair Lapid, che non ha fatto grandi promesse, però ha detto più volte quello che non va fatto piuttosto che quello che va fatto, cioè ha interpretato quello che è un sentimento popolare molto diffuso, cioè di gente, gli israeliani non sono stanchi di questo continuo minacciare, attacchi preventivi all'Iran senza pensare alle conseguenze, sono stanchi che si sia interrotto brutalmente il dialogo con i palestinesi, il negoziato, e che anzi nessuno voglia seguire più che esiste una componente moderata del mondo palestinese, quella che sta a Ramallah, quella di Abu Mazen, e con la scusa che tutti i palestinesi sono uguali. Vuole recuperare il rapporto con gli Stati Uniti, perché Netanyahu ha fatto di tutto per risultare antipatico, quantomeno, se non addirittura non molto presentabile, al presidente Obama. Non soltanto ha sostenuto Mitt Romney durante la campagna per le presidenziali, dimostrando uno scarsissimo acume politico e anche una certa incapacità di saper cogliere dove andava il vento, non per ragioni di opportunismo, ma perché gli Stati Uniti sono l'alleato fondamentale di Israele, l'alleato di cui Israele non può fare a meno. E ora è chiaro che Barack Obama, che ha confermato e ha mantenuto così questa forte alleanza, ha un'antipatia personale per Netanyahu, anche se non la fa vedere, perché Obama è un uomo di Stato, non c'è niente da fare, è un grande statista. E parlando però con un giornalista ha detto che la linea di Netanyahu sta portando il paese all'isolazionismo, e così a chiudersi. E questo danneggerà lo stesso Israele, aveva detto Obama poco prima delle elezioni israeliane. E poi c'è una cosa: Lapid vorrebbe recuperare il rapporto con la Casa Bianca, naturalmente, ma Lapid ha anche ascoltato quello che Netanyahu ha finto che non esistesse, cioè il malessere sociale di un paese che ha una crisi economica che non è certo come quella europea, però fatte le proporzioni la è perché la crisi comincia a mordere anche lì, la crescita c'è, ma è una crescita molto forte nel campo dell'high tech, quindi nel campo, in un campo specifico, ma per esempio gli affitti delle case sono diventati proibitivi, in Israele ci sono molti stranieri che arrivano per lavoro e sono pronti a pagare anche delle cifre importanti, ma la gente che vive lì magari con 1.300 dollari al mese, magari ne deve pagare 700-800 d'affitto, Insomma, è chiaro che questo ha provocato una serie di proteste. E poi l'ultima cosa che ha giocato a favore di Lapid è stata quella di dire: ma per quale ragione gli ultraortodossi, i religiosi, non devono fare servizio militare? Cioè, qui si stanno creando veramente due tipi di israeliani, e questo io credo che sia piuttosto dicevole. E Lapid ha semplicemente colto questo segnale. Poi è un giornalista che tra l'altro efficace, che sa parlare in pubblico, che sa convincere la gente, è un bell'uomo. Prima Netanyahu credeva di essere, io l'ho definito, uno con il complesso Netanyahu del micio e del macio, cioè aveva quest'aria un po' gattonesca, ma dall'altra parte così amava mostrarsi come l'uomo, il macio vero, eccetera. Adesso è arrivato uno che è più moderno, ha anni meno di lui, ma soprattutto ha quest'aria un po', quest'immagine da attore moderno, dicevate sicuramente Banderas, ma anche in parte George Clooney. E questo è chiaro che su un elettorato laico ha fatto la presa e rappresenta oggi la vera novità, perché qui siamo davanti adesso al grande dilemma: a chi darà l'incarico Shimon Peres? Shimon Peres dovrà darlo per forza a Netanyahu, perché Netanyahu rappresenta il primo partito, seppur ferito, seppur ridotto, di Israele, quindi la prima tornata sarà la sua. Ma è chiaro, quindi le possibilità di coalizione, considerati i risultati elettorali che appunto i diversi partiti hanno ottenuto? Dovrà fare una maggioranza, se ci riuscirà e se altri accetteranno, diversa da quella che veniva espressa prima. È chiaro che dovrà tener conto di quelle che sono le linee, no? dei nuovi alleati o dei nuovi possibili partner di governo. Insomma, quindi vedremo un Israele probabilmente diverso da quello che abbiamo visto negli ultimi tempi, dove si è privilegiato il non fare piuttosto che fare, e dove le minacce sono state superiori alle azioni, le minacce così di scatenare spedizioni punitive, con un'intossicazione forse eccessiva di un'opinione pubblica che è abbastanza matura. E quindi bisognerà vedere prima chi Peres deciderà, cioè che cosa farà Netanyahu quando avrà l'incarico, e secondo a chi aprirà. Io presumo che dovrà aprire per forza a Lapid, o forse anche ai laburisti, ma allora si creerebbe la grande coalizione, che forse ridurrebbe il potere dei partiti religiosi, ma sicuramente creerebbe una situazione anche imbarazzante per una serie di ossimori politici all'interno del governo. Mi scusi Ferrari, volevo farle una domanda proprio in relazione al suo intervento. Lei ha parlato degli errori di Netanyahu, ha parlato della crisi economica. Sta cambiando piano piano forse anche qualcosa nella società israeliana per quanto riguarda il grande problema, che è la questione della sicurezza e della pace, dopo tanti anni di Sharon, di Netanyahu, che hanno portato a una situazione che rimane esplosiva? C'è forse nell'opinione pubblica israeliana piano piano la volontà di un atteggiamento un po' diverso nei confronti della situazione medio orientale, palestinese in primis, ma poi anche iraniana, e le relazioni con gli altri paesi che circondano Israele? Sì, qualcosa sta succedendo. Io distinguerei tra Sharon e Netanyahu, perché Sharon tutto sommato un passo lo aveva compiuto, non sappiamo se avrebbe compiuto il secondo, perché poverino è stato colpito da un ictus e è ancora in stato neurovegetativo dopo 6 anni. Tempo incredibile, e voglio dire, anzi mi sembra quasi addirittura 7 anni che in queste condizioni di vita vegetativa, cioè soltanto il cuore funziona, ecco, e il resto no. Ecco, mentre Netanyahu che si era distinto da Sharon aveva fondato poi un partito centrista quando aveva deciso, dopo aver deciso di ritirarsi da Gaza, di ritirare tutti gli insediamenti che si trovavano a Gaza, quindi tra i due c'è comunque una certa differenza. Però sì, qualcosa sta succedendo, io credo che stia succedendo, ma proprio perché Israele è un paese avanzato, un paese molto così con molto moderno, se vogliamo. Tra l'altro non è una repubblica, come ben sappiamo, è uno Stato confessionale, quindi è lo Stato ebraico naturalmente, ma è uno Stato moderno che ha così una che vorrebbe, almeno nella sua parte più dinamica, restare nell'area come essere accettato chiedo scusa, dagli altri paesi. Come si fa a essere accettati se si sono costruiti soltanto muri? È il complesso del ghetto, quella è la cosa pericolosa. Muro che è stato in Israele e in Palestina vede delle cose incredibili, cioè il muro di separazione tra Israele, che tra l'altro ha portato via ancora un po' di terra palestinese, un po' di terra araba, è un muro alto 8 metri di cemento armato, lungo chilometri e chilometri, centinaia di chilometri, è pazzesco. E poi se pensiamo che oltre a questo muro c'è un muro che si sta costruendo, anzi se ne è costruita la gran parte al confine con l'Egitto, e ora si costruisce un terzo muro, diciamo, nel Golan per separare dalla Siria. Io non credo che Israele possa vivere come un ghetto. Israele per sua natura è un paese aperto, quindi vivere come un ghetto, chiedo scusa ancora, sarebbe veramente disdicevole. Ma proprio per la stessa vita degli israeliani, che sono grandi viaggiatori e che amano proprio il rapporto con gli altri. È chiaro che la sicurezza è importante, ma non credo che si possa garantire la sicurezza soltanto chiudendosi in una specie di grande ghetto e dove così praticamente impermeabile e quindi chiuso al mondo, soffocato da se stesso. È chiaro che la gente questo non lo vuole. La pace, e poi c'è un rischio che è venuto fuori in questa campagna elettorale, anche se molto timido, e visto che i problemi sociali erano più forti di quelli politici, la gente era stanca di sentir parlare di Iran, ma anche del negoziato di pace con i palestinesi che hanno visto praticamente inconcludente per tanti decenni. Però qualcuno ha cominciato a dire attenzione, l'America, l'Europa, il mondo ci chiedono di procedere nella realizzazione dei due stati che vivano l'uno accanto all'altro in pace e in sicurezza, come voleva persino il presidente Bush, che non è stato certo uno dei più lungimiranti inquilini della Casa Bianca, però su questo aveva una visione direi piuttosto chiara. È evidente che se non dovesse succedere questo, e questo lo dicono gli studiosi di demografia israeliani, stessi israeliani, cosa succederebbe? Resterebbe un solo Stato, ma questo solo Stato, ammettiamo pure Israele, certo Israele che ha 25% ormai di popolazione musulmana, araba, e nel giro di 10, 15, 20, 25 anni e la componente musulmana rischierebbe di diventare maggioritaria rispetto alla componente ebraica, cioè non ci sarebbe più uno Stato ebraico. Come si fa? Ma sarebbe un suicidio anche per la destra di Israele. Ecco perché anche questo problema sta diventando urgente e sia pur taciuto durante questa campagna elettorale, è destinato a riproporsi. Antonio, hai menzionato l'Iran. Ti posso chiedere come vedi l'evoluzione della crisi iraniana e la posizione di del futuro di un governo israeliano? La situazione iraniana è molto complessa. L'Iran ha cercato addirittura di proporre un piano di soluzione del problema siriano. È chiaro che non si è trattato di grandi idee particolarmente così innovative per cercare di risolvere quella crisi spaventosa. Ma dall'altra parte io credo che si stia muovendo qualcosa anche all'interno della società iraniana e si stia muovendo proprio anche nel rapporto o nel conflitto o nel confronto tra Ahmadinejad e il clero sciita, a cominciare dall'Ayatollah Khamenei. Perché? Perché per una ragione molto semplice. Ahmadinejad per il tutto non è un religioso, non è un chierico, non è uno Hoyatollah Islam, non è un Ayatollah, non appartiene al clero, è un laico. È un laico ed è un laico con delle posizioni assolutamente inaccettabili, ma anche come molti laici cerca di tenere aperti anche i canali, diciamo con quello che la propaganda chiama il grande Satana, cioè con gli Stati Uniti. Sappiamo che ci sono nella cerchia di Netanyahu, di Ahmadinejad, dei personaggi che hanno avuto contatti anche con esponenti dell'amministrazione americana. E io direi che forse qualche cosa si sta muovendo come rinuncia o comunque con una minore aggressività diciamo dell'opzione nucleare da parte dell'Iran, e quindi più disponibilità probabilmente almeno dalla parte più moderata, più consapevole del paese, ad accettare magari qualche maggiore controllo e quindi allontanare il rischio diciamo di una vera minaccia iraniana, e questo spunterebbe definitivamente le armi di chi vuole l'attacco preventivo anche in Israele, attacco preventivo che è stato scoraggiato non soltanto dalle forze armate ma da tutti i servizi segreti israeliani. Antonio, leggevo che hanno ovviamente partecipato alle elezioni anche partiti, intorno alle elezioni in Israele, partiti politici guidati da arabi, e che meno dell'1% degli israeliani li ha votati. Ecco, ti vorrei chiedere se puoi dirci qualcosa di più su questi appunto partiti che hanno partecipato alle elezioni guidati da arabi, chi sono e chi in Israele li vota. Sono arabi che sono cittadini di Israele, prima di tutto, e i partiti arabi all'interno della Knesset ci sono sempre stati, erano quasi sempre orientati abbastanza a sinistra, è ovvio, erano naturali alleati del partito laburista di Meretz e degli altri partiti dei movimenti pacifisti, di Peace Now, eccetera. E non dimentichiamo che come cittadini israeliani hanno il loro... partecipano alla vita politica del paese. Per esempio, io ho conosciuto un ambasciatore che è stato ambasciatore a Atene, è stato ambasciatore a Helsinki, che era un arabo israeliano, ma arabo e ambasciatore di Israele. Quindi voglio dire, sono ormai integrati nella società, anche se sono considerati in realtà cittadini di serie B. Sono molto concentrati in alcune zone, in Galilea, soprattutto a Nazareth. Nazareth è una città arabo-israeliana, e che partecipano, e in questa elezione sono stati abbastanza silenti, anche perché c'era tutta una certa campagna di boicottaggio per questo voto, nel timore o nella convinzione che comunque non sarebbe cambiato nulla in Israele. E quindi che non c'erano prospettive per riavviare il processo di pace. È chiaro che questi partiti sono tutti concentrati quantomeno a far riprendere in maniera molto decisa il dialogo e arrivare, come dicevo prima, alla soluzione dei due stati. Quindi direi che il voto è stato un voto limitato, uno perché si è parlato poco, ne hanno parlato poco tutti, per la stanchezza e per l'inconcludenza dei vari dibattiti sul processo di pace, e secondo proprio perché c'era sfiducia, c'era il timore, ecco, anche quello, c'era il timore che Netanyahu avrebbe fatto man bassa di voti. Ecco perché è sorprendente che nessuno avesse previsto questa vittoria di Pirro, come l'ha definita Arez, cioè una vittoria che di fatto è una sconfitta per il primo ministro uscente. Cioè, visto che tutti pensavano, se è andato alle elezioni anticipate vuol dire che avrà delle carte per stravincere, invece le ha perse, praticamente le ha vinte ma le ha perse, ma è come se avesse perso. È chiaro che in questa situazione forse se si rivotasse oggi ci sarebbe molto più sostegno e molto più percentuale anche nelle liste dei partiti arabi. Antonio, abbiamo 2 minuti prima della chiusura. Un'ultima battuta la vogliamo dedicare alla giornata della memoria appena trascorsa. Tu da anni sei impegnato in diverse iniziative durante questo periodo. Puoi parlarci brevemente di un'iniziativa a cui hai partecipato quest'anno e che vorresti far conoscere ai nostri radioascoltatori? Ma sì, io ho partecipato alla cerimonia del binario 21 della stazione di Milano, dove partivano i treni per Auschwitz e Birkenau, e soprattutto sono andato a parlare nelle scuole. È un po' la mia quello che sento come un dovere morale, perché il negazionismo è brutto, è terribile, e poi perché vedo segni di antisemitismo crescenti un po' dappertutto. Penso alla Grecia, penso all'Ungheria, ma penso anche all'Italia, penso anche alla Francia, e questo antisemitismo, intolleranza, questo fa paura. E poi ecco ancora due cose. Al binario 21 c'è una grande scritta sulla pietra: indifferenza. È proprio l'indifferenza che bisogna combattere, quello voltarsi dall'altra parte, perché se si cominciano a accettare passivamente fenomeni rabbiosi, fenomeni di insofferenza e di razzismo, le derive purtroppo portano in fretta a quelle soluzioni che molti credevano di avere chiuso dicendo mai più. E ultima cosa, lo faccio anche perché forse verrò anche a Bruxelles, voglio dire, ho sempre sostenuto la decisione di questo gruppo che ha ottenuto anche la maggioranza dei voti al Parlamento europeo per fare la giornata dei giusti, giornata dei giusti che sarà a partire da quest'anno ogni 6 marzo, giornata europea dei giusti.